Premetto che io sono stata in Palestina, quindi ho visto con i miei occhi come si vive in questi villaggi che sono sempre sotto la pressione di nuovi insediamenti dei coloni israeliani, sono sotto la pressione della presenza militare israeliana. Per uscire da un villaggio si passa un checkpoint e devi per entrare nell'altro villaggio rifare il checkpoint. Quindi ci sono delle situazioni veramente di pressione sulla vita quotidiana che la rendono infernale. I bambini per poter andare a scuola sono esposti alle aggressioni dei coloni, sono esposti anche questi alla pressione dell'esercito israeliano e quindi ci sono anche volontari italiani che aderiscono alla cosiddetta Operazione Colomba, che è nata proprio per accompagnare i bambini dalle loro case alle scuole e viceversa. Come ci ha raccontato uno dei palestinesi che erano in questa delegazione, quando escono di casa i bambini non sanno se torneranno e quindi ci ha parlato del caso di uno che ha perso una mano e di un altro che proprio non ha fatto rientro a casa. Allora, io queste cose le ho viste con i miei occhi, quindi non sono esagerazioni. Purtroppo è così. Nel caso adesso di questa comunità di 12 villaggi, Massefar Yatta, qui siamo in una situazione forse ancora peggiore, perché hanno dichiarato quella zona lì area di esercitazioni militari e quindi gli stanno distruggendo le case, gli stanno distruggendo le scuole, confiscano le auto degli insegnanti, quindi li vogliono veramente eradicare. È una sorta, chiamiamola pure, di pulizia etnica. La regione Emilia-Romagna ha dei progetti di cooperazione che sono soprattutto rivolti alla striscia di Gaza. Stiamo monitorando un accordo di IREN, che è una delle due grosse multiutility della regione, con un'azienda israeliana, perché è un accordo che temiamo potrebbe portare ad esasperare l'altro percorso, diciamo, di persecuzione. Io non esito a chiamarla così, danni dei palestinesi, cioè sottrargli l'acqua, anche questo ho visto con i miei occhi, cioè come loro difendono le fonti d'acqua e come spesso queste fonti d'acqua vengono inglobate nell'area di influenza dei coloni israeliani e quindi gliele sottraggono. Allora, in un territorio come quello della Palestina, se non hai la disponibilità d'acqua, sei veramente in grossa difficoltà. L'altra cosa che faremo adesso è di rivolgerci anche noi con una lettera all'ambasciata israeliana, facendo presente che siamo a conoscenza di questa situazione e che la riteniamo indegna e intollerabile. Poi vedremo se nel caso si formi una delegazione che andrà a Massefar Yatta, se riusciremo a partecipare anche noi e come. Però intanto daremo sicuramente una mano, perché per loro questo è fondamentale, a far conoscere la situazione, perché per loro è vitale far sapere che non sono isolati, perché la presunzione di isolamento per Israele è un'altra scusa per tormentarli ancora di più con questa forma ormai di regime quasi d'apartheid sudafricana. Non a caso anni fa venne proprio un'azione di solidarietà da parte del Sudafrica post-apartheid, perché chiaramente loro sapevano di cosa parlavano.